Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nel settembre 2009, mentre si trovava a Zurigo per ritirare un premio alla carriera, il regista Roman Polanski venne arrestato dalle autorità svizzere per un reato commesso 30 anni prima e per il quale aveva già scontato la pena. A 7 mesi di distanza, Polanski rompe il silenzio e racconta la sua verità in una lettera aperta indirizzata al Corriere del Ticino. Nei 7 mesi che sono trascorsi dal 26 settembre 2009, data del mio arresto all'aeroporto di Zurigo, dove il rappresentante del ministro della cultura doveva consegnarmi un premio alla carriera, mi sono astenuto da qualsiasi commento pubblico e ho chiesto ai miei avvocati di limitare le loro dichiarazioni allo stretto necessario. Volevo che le autorità giudiziarie di Svizzera e Stati Uniti, come anche i miei avvocati, svolgessero il loro lavoro senza interventi polemici da parte mia. Ho deciso di rompere il silenzio per rivolgermi direttamente a voi, senza intermediari e con parole mie. Come tutti voi, ho vissuto momenti drammatici e momenti felici e non vi chiedo ora di impietosirvi sulla mia sorte. Chiedo soltanto di essere trattato equamente come qualsiasi cittadino. È vero, 36 anni fa mi sono dichiarato colpevole, ho scontato nella prigione dei criminali di reati comuni di Chino e non in una prigione di VIP, una pena che doveva ricoprire la totalità della mia condanna. Quando sono uscito dal carcere, il giudice ha cambiato idea e ha preteso che a Chino non avessi scontato l'intera condanna. È tale cambiamento radicale di posizione che ha motivato la mia partenza dagli Stati Uniti. Dopo più di 30 anni, la mia vicenda è tornata a galla a causa di un documentarista, il quale ha raccolto testimonianze di persone che all'epoca erano coinvolte in questa storia. Non ho partecipato in nessun modo a tale progetto, né direttamente né indirettamente. Il documentario che ne è derivato ha messo in evidenza il fatto che avevo lasciato gli Stati Uniti perché trattato ingiustamente, il che ha irritato le autorità di Los Angeles. Sentendosi attaccate, queste hanno deciso di esigere la mia estradizione dalla Svizzera, paese in cui mi reco regolarmente da 30 anni senza alcun problema. Non posso mantenere il silenzio più a lungo perché le autorità americane hanno appena deciso, a dispetto di tutte le disposizioni e le argomentazioni di terze parti, di rifiutare la mia condanna in contumacia, mentre la Corte d'Appello aveva raccomandato il contrario. Non posso mantenere il silenzio più a lungo perché la Corte della California ha respinto le numerose richieste della vittima di abbandonare definitivamente i procedimenti contro di me, al fine di risparmiarle i tormenti che attraversa ogni qualvolta questa vicenda viene evocata. Non posso mantenere il silenzio più a lungo perché recentemente si è verificato un nuovo sviluppo di enorme importanza. Il 26 febbraio di quest'anno, Roger Ganson, il procuratore distrettuale aggiunto incaricato dell'affare nel 1977, ora in pensione, ha dichiarato sotto giuramento davanti al giudice Mary Lou Villar e in presenza di David Walgreen, l'attuale procuratore che in tutta libertà poteva contraddirlo e interrogarlo, che il 16 settembre 77 il giudice Rittenband aveva dichiarato davanti a tutte le parti in causa che il mio periodo di incarcerazione a Chino corrispondeva alla totalità della condanna che dovevo scontare. Non posso mantenere il silenzio più a lungo perché la domanda di estradizione indirizzata alle autorità svizzere è basata su una menzogna. Nella stessa dichiarazione, Roger Ganson, il procuratore distrettuale aggiunto ora in pensione, ha inoltre detto che era falso affermare, come fa l'ufficio del procuratore distrettuale nella sua domanda di estradizione, che il tempo da me trascorso a Chino fosse destinato a una perizia psichiatrica. La suddetta richiesta sostiene che ero scappato per sfuggire alla condanna delle autorità giudiziarie, quando invece nel patteggiamento durante il processo avevo riconosciuto i fatti ed ero tornato negli Stati Uniti per scontarvi la mia pena. Mentre alla corte non restava che confermare questo accordo, il giudice decise di respingerlo per farsi pubblicità a mie spese. Non posso mantenere il silenzio più a lungo perché per oltre 30 anni i miei avvocati non hanno mai smesso di mettere in evidenza che ero stato tradito dal giudice, il quale aveva giurato il falso e che avevo scontato la mia condanna. Oggi il procuratore distrettuale aggiunto, che si era occupato dell'affare negli anni 70, un uomo dalla reputazione irreprensibile, conferma sotto giuramento le mie dichiarazioni, il che apporta una luce del tutto nuova sulla vicenda. Non posso mantenere il silenzio più a lungo, perché le stesse cause producono oggi gli stessi effetti. Il nuovo procuratore distrettuale che ha chiesto la mia estradizione è in campagna elettorale e ha anch'egli bisogno di pubblicità. Non posso più tacere perché gli Stati Uniti continuano a reclamare la mia estradizione, più per consegnarmi in pasto ai mass media del mondo intero che per pronunciare un giudizio su cui un accordo è stato trovato 33 anni fa. Non posso mantenere il silenzio più a lungo, perché sono assegnato agli arresti domiciliari a Gstaad, dopo aver versato un'elevatissima somma di denaro come cauzione, e questo mi ha obbligato a ipotecare l'appartamento in cui vivo da oltre 30 anni. Attualmente mi trovo nell'impossibilità di lavorare e sono costretto a vivere lontano dalla mia famiglia. Ecco i fatti che desideravo farvi conoscere, nella speranza che la Svizzera riconoscerà che questa domanda di estradizione non si basa su alcuna giustificazione legale e che potrò così ritrovare la pace, riunirmi alla mia famiglia e vivere libero nel paese dove sono nato. Avete ascoltato la lettura dell'appello di Roman Polanski dal Corriere del Ticino del 2 maggio. Nei giorni scorsi l'Iran, paese dove è legale per un uomo violentare la propria moglie e dove le donne che non si attengono alle regole stabilite dagli Ayatollah possono essere punite o arrestate per strada, è entrato a far parte della Commissione ONU per la difesa delle donne. Una scelta che rappresenta una vetta di comicità, scrive Pierluigi Battista in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. Il sollievo è durato solo qualche giorno. L'Iran aveva rinunciato a candidarsi al Consiglio dei diritti umani dell'ONU, sottraendo le Nazioni Unite all'ennesima brutta figura che ne avrebbe ulteriormente sfregiato la credibilità. Mai rilassarsi per il pericolo evitato, perché dopo poche ore abbiamo appreso che l'Iran farà sentire la sua competente voce nel CSW, la Commission on Status of Women, deputata alla difesa e alla tutela dei diritti delle donne in tutto il mondo. Le vette inviolate della comicità suprema sarebbero così raggiunte di slancio se questa inopinata promozione non fosse una tragedia, il seppellimento definitivo di ogni autorevolezza in un organismo internazionale nato per difendere i diritti dell'umanità e diventato vetrina di tutti i tiranni esibizionisti del mondo. Chissà cosa dirà questa commissione chiamata a difendere i diritti delle donne a proposito della prigione di Gohar Dast, nella città di Karaj, nel nord iraniano, dove è stata denunciata dal 2005 la scomparsa nel nulla di decine di detenute che si teme, secondo circostanziate denunce trapelate nel corso degli anni, siano state anche vittime di stupri e violenze inimmaginabili in un qualunque paese civile. Chissà come gli attenti partecipanti ai lavori della commissione non tempesteranno di domande il rappresentante di Teheran sull'appassionante discussione che elettrizza l'Iran su questo civile dilemma. Bisogna seppellire le donne condannate alla lapidazione solo dalla cintola in giù o immobilizzando tutto il corpo ad eccezione della testa. Chissà come accoglieranno le notizie che vengono dall'Iran. Sulle ragazzine costrette a sposarsi come fossero oggetti nelle mani del padre padrone e del futuro marito violentatore. Sul diritto che a Teheran prevede l'impossibilità per una donna di sporgere denuncia per le violenze subite senza avvalersi della testimonianza di ben 4 uomini. Sulla possibilità per i maschi di non essere condannati se uccidono la moglie in flagranza d'adulterio, sulle percosse subite dalle donne colpevoli solo di non attenersi alle ingiunzioni del regime degli Ayatollah. Chissà perché i governi del mondo non muovono un passo per salvare l'ONU dal ridicolo e dal patetico, perché anche il governo italiano tace, tranne Fiamma Nierenstein, deputata PDL, e tace anche l'opposizione, così verbosamente affezionata alla difesa dei diritti e sempre pronta a difendere qualunque azione, purché sotto l'egida dell'ONU. Chissà perché i rappresentanti delle democrazie all'ONU non decidono di salvare se non altro la decenza e la dignità di una bandiera gloriosa, come quella dei diritti umani, disertando tutti insieme questi organismi farseschi in cui chi umilia, massacra e calpesta le donne si permette di pavoneggiarsi con un omaggio formale ai diritti umani. Basterebbe alzarsi e andarsene e lasciare solo in una stanza vuota chi teorizza la lapidazione delle donne. Basterebbe, ma non accadrà, sotto l'egida dell'ONU. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, L'Iran e le donne, follia con l'egida ONU, dal Corriere della Sera del 3 maggio. Letture di Radio 24. A Novara, una donna tunisina è stata multata perché si era recata in posta con il velo integrale, in applicazione di una recente ordinanza del sindaco di quella città. Ma non sarebbe ora di creare anche in Italia, come in Francia, delle regole che valgano per tutto il paese? Come scrive Isabella Bossi Fedrigotti sul Corriere della Sera. La signora di Novara, multata di 500 euro dal sindaco leghista perché beccata in strada con il velo integrale, d'ora in poi non uscirà più di casa per volere dell'osservantissimo suo marito musulmano? Pazienza. Vuol dire che a fare la spesa ci andrà lui, come andrà lui a prendere i figli a scuola, a parlare con gli insegnanti, ad accompagnarli dal medico, a visitare i parenti in ospedale, a pagare le bollette alla posta e alla banca. Pur con grande rincrescimento per la povera donna costretta dal consorte agli arresti domiciliari, se è stato deciso che il burka non è ammesso a Novara, non si può fare marcia indietro a causa di un ricatto che paradossalmente fa l'occhiolino alle femministe. Il vero punto della questione è però un altro. Premesso che il velo integrale per la nostra sensibilità è e rimane un obbrobrio mortificante perché nasconde il viso e impedisce i movimenti, e premesso anche che chi, sia pure per ragioni di forza maggiore, decide di trasferirsi in Europa non può non tenere conto degli usi e dei costumi europei, sarebbe ora, dopo almeno 20 anni di intensissima immigrazione musulmana, che il nostro paese si desse infine una regola, o almeno, che aprisse in proposito una discussione seria. La Francia ci ha messo 9 anni, ma recentemente si è alla fine data una legge che proibisce il burka e il Belgio ha appena fatto altrettanto. Da noi, invece, già regna una specie di federalismo anzitempo, per cui ciascuna regione, o meglio ciascun comune, sul modello di quanto è avvenuto sinora a Novara, Como, Bergamo, finirà per varare le regole che crede meglio, non raramente in contraddizione con quelle del comune vicino. Quanto basta, insomma, per disorientare gli italiani e convincere gli stranieri della nostra debolezza e insipienza, tanto da farli probabilmente sentire autorizzati a proporre un ricatto come quello messo in atto dal signore di Novara. Sul corpo delle donne, naturalmente, ma questo è ancora un altro discorso. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Isabella Bossi Fedrigotti, Le multe alle donne velate e il dibattito che in Italia non c'è. Dal Corriere della Sera del 4 maggio. In un'epoca in cui tra le nuove generazioni è sempre più diffusa la convinzione che la musica non si debba pagare, ha senso accanirsi per far pagare i diritti d'autore anche a chi si mette a cantare nel proprio negozio? Sulle pagine del mensile BBC Music, il critico musicale Richard Morrison si scaglia contro alcuni comportamenti assurdi della PRS, la società che si occupa di raccogliere i diritti d'autore per gli artisti inglesi. Ho saputo che adesso la Performing Rights Society, l'organizzazione che si occupa di incassare i diritti d'autore per gli artisti inglesi, ha cambiato nome e si chiama PRS per la musica. Per la musica. Ho sempre pensato che il suo scopo principale fosse quello di alienare il pubblico dalla musica e dai musicisti, cercando di rendersi il più possibile irritante. Se valutati secondo questi criteri, quelli della PRS fanno un ottimo lavoro. Una storia recentemente riportata dai giornali lo dimostra. Una nonnina scozzese che lavora in un negozio di generi alimentari è stata scoperta dalle spie della PRS mentre, orrore, scandalo, cantava davanti ai clienti. Si sono forse congratulati con lei perché portava avanti una tradizione che il governo inglese sta cercando di far rinascere nelle scuole, a suon di milioni? No, di certo. Si sono forse complimentati con lei per i brillanti acuti o per le morbide note basse? Naturalmente no. Le hanno detto che se avesse continuato a cantare, avrebbe rischiato una multa a 4 cifre, perché, vedete, stava esibendosi in pubblico senza licenza. Non importa se lei sta ascoltando una canzone di Robbie Williams o se la sta cantando, le ha detto un portavoce della PRS. Lei deve pagare. Utilizzare nel suo negozio materiale protetto da copyright senza pagare è illegale. Anche comportarsi da idiota sarebbe illegale. Se fossi io a governare il mondo... A dire il vero, quelli della PRS hanno successivamente fatto marcia indietro, anche per evitare di essere sbeffeggiati dai giornali, e hanno dichiarato che non pretendevano certo che una negoziante acquistasse una licenza per poter cantare davanti ai propri clienti, ma ormai la frittata era fatta. Qualche migliaio di lettori di quotidiani ormai ha concluso che il business della musica è retto da persone che si sarebbero trovate bene nella Gestapo. E dopotutto, questo non è stato un caso isolato. Alla proprietaria di un maneggio che per far rilassare i cavalli faceva ascoltare loro della musica classica, trasmessa dalla radio, è stato ordinato di acquistare una licenza perché quello che faceva era considerato esecuzione pubblica. La catena di auto-officine della QuitFit è stata portata in tribunale perché alcuni dipendenti avevano con sé una radiolina. La PRS ha sostenuto che le radio avrebbero potuto essere sentite da altri dipendenti, dando luogo in questo modo a un'esecuzione pubblica. La squadra di calcio Oldham Athletic è stata costretta a rinunciare alla musichetta con la quale veniva festeggiato ogni gol, quando ha ricevuto un conto da 3.900 sterline da parte della PRS. E i secondini delle carceri non possono più ascoltare la radio al lavoro, perché il ministro della giustizia si rifiuta di pagare il mostruoso conto da 500.000 sterline che la PRS ha presentato al sistema carcerario. Naturalmente non tutti i compositori si chiamano Paul McCartney. La maggior parte dei 65.000 membri della PRS guadagna meno di 5.000 sterline all'anno in diritti d'autore. Hanno bisogno del supporto collettivo della PRS, soprattutto in un periodo come questo in cui la gente si aspetta, irrazionalmente, di poter ascoltare la musica senza pagare. In questo senso, le iniziative per convincere i titolari di attività ad acquistare licenze per diffondere musica sono di vitale importanza. Ma devono proprio essere così privi di tatto? Conosco dei vigili che mostrano più discrezionalità rispetto a certi ispettori della PRS. E perché poi, dopo aver raccolto 623 milioni di sterline, la PRS spreca così tanti soldi in progetti non necessari? Come le 50.000 sterline che la PRS spende ogni anno per premiare nuove forme musicali. C'è stato un anno in cui il premio è andato a un uomo che aveva scavato una buca in un bosco del Kent e aveva amplificato il suono dell'acqua che vi scorreva. Forse queste sciocchezze portano la PRS in prima pagina, ma che spreco! Non c'è da stupirsi se il 10% dei soldi raccolti dalla PRS, pari a 60 milioni di sterline, serva a coprire le spese amministrative. Il direttore della PRS guadagna 400.000 sterline all'anno. Ci si potrebbe far campare un'orchestra per un anno con quei soldi. Sfortunatamente, se la PRS non esistesse, bisognerebbe inventarla. Il mondo moderno è troppo complesso per pensare che i singoli compositori stabiliscano le tariffe per i propri diritti e si mettano alla caccia di ciò che spetta loro per legge. Ma se fossi un musicista membro della PRS, vorrei sapere perché chi mi rappresenta sembra intenzionato a gettare discredito sulla mia professione. E in un momento come questo, i musicisti avrebbero bisogno del massimo sostegno pubblico. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'articolo di Richard Morrison «La PRS protegge i musicisti o perseguita il pubblico?» dal numero di maggio della rivista BBC Music Magazine. In Europa esiste un numero unico da chiamare in caso di emergenza, valido per tutti i paesi della comunità, tranne l'Italia. In caso di emergenza, chiamate il 112. Ovunque in Europa ci sarà qualcuno in grado di rispondervi e nello spazio di un clic anche di identificare la vostra posizione in modo da venirvi a salvare nel più breve tempo possibile. Ovunque in Europa, ma non in Italia, il solo paese che non è riuscito a garantire la possibilità di localizzazione del cittadino in difficoltà. Roma è stata avvertita, condannata e riavvertita. Niente da fare. Adesso la Commissione UE la riporta in Corte di Giustizia e in caso di seconda sentenza negativa propone una multa da 39.680 euro al giorno, 14,5 milioni l'anno. Se si è in pericolo anche un attimo, fa la differenza, avverte Bruxelles. È una inadempienza che può uccidere. La richiesta di punire il governo italiano con un'ammenda cade nella periodica giornata di pulizia dei cassetti in cui la Commissione UE, guardiano del rispetto delle regole e dei trattati comunitari, esamina e chiude i dossier di infrazione. Come capita spesso, Roma ne esce un po' come San Sebastiano, colpita da frecce numerose e scagliate da mani differenti. E se non bastasse, arriva l'ultimo avvertimento nei confronti dell'Italia a proposito del livello di inquinamento da particelle sottili, PM10 per gli addetti ai lavori. In questo caso non abbiamo osservato le norme UE necessarie per essere certi che l'aria che respiriamo non sia letale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marco Zatterin «Alla chiamata d'emergenza l'Italia non risponde» dalla stampa del 6 maggio.